I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. A suo modo, la legge di bilancio per il 2017, giunta al traguardo mercoledì, può già vantare un record, con l'iter parlamentare più breve che si sia mai visto. La discussione effettiva del testo è durata solo 10 giorni tra Camera e Senato. La manovra, come più volte abbiamo detto, vale circa 27 miliardi di euro, di cui 11,9 in deficit. Un comma ogni 5 sui 638 che compongono la manovra prevede un impegno di spesa per le casse dello Stato. E a dire il vero, stupisce che neppure la nuova legge di bilancio, che ha sostituito la vecchia legge di stabilità, sia riuscita a evitare completamente il vizietto dei micro stanziamenti, dei quali non sempre si colgono le necessità e l'utilità. Qualche esempio: 100.000 euro per escludere dalla spending review la società Arte, Lavoro e Servizi, 300.000 euro per i servizi stampa degli italiani all'estero e poi, tra i tanti, 1 milione di euro per il basket giovanile e una cifra analoga per le associazioni combattenti e per il piano d'azione Donne, Pace e Sicurezza. Che dire, non è una consolazione, ma dobbiamo sapere che poteva anche andare peggio. A limitare l'assalto alla diligenza ha contribuito la crisi di governo, che ha imposto al Senato di approvare il testo senza modifiche. In caso contrario sarebbero stati stanziati altri 200, forse 300 milioni per ulteriori micro interventi, per quelle che una volta chiamavamo le leggi mancia. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il fronte bancario è sempre più incandescente. In primo luogo, la vigilanza della BCE avrebbe respinto oggi la richiesta del Monte dei Paschi di Siena di avere 20 giorni di tempo in più per l'aumento di capitale, che quindi, se la notizia verrà confermata, dovrà essere chiuso entro il 31 dicembre. Il mancato via libera alla proroga, che ha subito determinato il crollo del titolo in borsa, farà decadere probabilmente il piano di ricapitalizzazione e aprirà la strada all'intervento dello Stato per salvare la banca attraverso un decreto legge che potrebbe arrivare già nel fine settimana. In secondo luogo, vanno registrate le polemiche sulla decisione della BCE di prolungare il quantitative easing, cioè l'acquisto di titoli, per altri 9 mesi rispetto al termine previsto, che era marzo 2017. Una scelta che ha provocato forti e pesanti critiche in Germania, dove il programma di acquisti è sotto accusa perché minaccerebbe la stabilità finanziaria dell'Eurozona. I critici tedeschi sostengono che il programma di acquisti della BCE ha anche l'effetto di tenere i tassi a livelli minimi, spesso in realtà sono sotto zero, con un onere pesante per gli utili e per la capitalizzazione delle banche europee. Naturalmente ci sono anche valutazioni di tipo politico. Alcuni osservatori in Germania sostengono che la scelta della BCE favorisca il successo dei movimenti populisti e diventi un favore per alcuni paesi, tra i quali anche l'Italia, accusa dalla quale proprio ieri si era difeso lo stesso Mario Draghi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.